nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Che settimana esplosiva, ascoltatrici e ascoltatori, bisogna dirlo. Cioè, questo è un paese straordinario dove non ci si annoia mai. Voi vi svegliate la mattina e non fate in tempo a leggere, a sentire, guarda, tutto quello che succede. Una cosa incredibile, al di là di avere più ampi orizzonti verso il mondo, ma anche solo in Italia. Voi pensate, ogni giorno ne viene fuori una, più di una. Sono un po' il nostro paese come le scatole cinesi, che ne apri una, poi c'è un'altra dentro, o le matrioske, a seconda dei vostri riferimenti, diciamo, geografici, geopolitici. Com'è possibile? Naturalmente poi qui il sabato abbiamo tante cose da raccontarci, no? Quelle che mi hanno più colpito, ovviamente il materiale mi fa piacere averne in grandissima quantità, anche se a certe volte sono molto confusa anch'io, non so più dove guardare, gli occhi che girano come rotelle, non so più neanche su cosa concentrarmi, quindi aiutatemi voi come sempre il sabato a fare un bilancio, a ritornare così con calma quando si può sulle notizie della settimana, in particolare su quelle che vi hanno interessato di più, su quelle su cui vorreste esprimere liberamente la vostra opinione, anche la vostra indignazione o il vostro entusiasmo a seconda un po' dei fatti. Il numero verde, ve lo dico, 800 24 00 24, numero verde quindi ecologico, evitate di disperdere il vostro tempo, le vostre energie altrove, concentratelo qui, non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati dalle 14 alle 15, 800 24 00 24. Quali sono tra le tantissime notizie su cui potremmo concentrarci? Intanto una che riguarda una dichiarazione che è arrivata proprio ieri sul tardi in una trasmissione della 7, 8 e mezzo con il presidente della Camera Fini, che ha detto così senza mezzi termini: Berlusconi è un corruttore, adesso mi quereli pure. Immediatamente, diciamo, entro mezz'ora Berlusconi poi ha dato subito mandato ai suoi legali di agire. Ecco, questa diciamo è la definitiva rottura, c'era già stata tra i due, insomma questa è veramente eclatante, diciamo anche cruenta, vedremo poi quali saranno le conseguenze. Che ne pensate di questa dichiarazione di Fini? Oggi tra l'altro sui vari giornali si parla della lettera che il famoso faccendiere Lavitola, ex direttore dell'Avanti, avrebbe scritto a Berlusconi, in cui gli chiedeva una congrua quantità di soldi per una serie di favori che gli aveva fatto, tra cui il dossieraggio sulla casa di Fini a Monte Carlo, vi ricordate? Poi che altro? Fra le tante notizie, le dimissioni del presidente della Regione Lazio Polverini. Come ne esce secondo voi, a parte queste cose veramente che gridano vendetta, di questi sprechi, di questi privilegi, di questo ratto dei soldi pubblici che in varie regioni, in Lazio in particolare, ma adesso le inchieste si stanno muovendo in varie altre regioni, che cosa ne pensate? A che punto è la vostra tolleranza? Poi che altro? Il Monti bis, diciamo che ha rassicurato i mercati da una parte, questo fatto che Monti ha detto vabbè, se ci sarà bisogno adesso qua non mi candido, ma poi insomma immagina che verrà posto lì una volta dopo le elezioni a capo di una coalizione, quindi dicevo ha rassicurato i mercati, ha spaventato un po' i partiti che si sono un po' tirati indietro, cioè come deve tornare la politica e che facciamo? Solo mi pare UDC di Casini, con Casini in testa, abbia mostrato molto entusiasmo. Poi la polemica sul caso Sallusti con Farina, ex giornalista perché era radiato dall'Ordine e deputato del PDL, che ha detto sono stato io a scrivere quell'articolo diffamatorio nei confronti del giudice Cocilovo. Napolitano, Presidente della Repubblica, che propone, dice questa, la situazione delle carceri in Italia è indegna e forse bisogna pensare a misure alternative, e ripensa anche a indulto e amnistia. Che ne pensate per esempio di un eventuale nuovo indulto o di un'amnistia per quanto riguarda le carceri italiane? Berlusconi ritorna a parlare, attacca Equitalia, dice fa dell'estorsione ai cittadini, parla dell'euro, del fatto che se la Germania uscisse dall'euro non sarebbe una tragedia, poi continuano la crisi greca, la crisi spagnola, la crisi dell'ILVA, questa continua lotta e braccio di ferro tra salute e lavoro, che è veramente una cosa straziante, non si capisce come uscirne, a meno che l'ILVA, i proprietari, non mettano i gran soldi, molti dei quali hanno guadagnato, per cercare di far funzionare l'ILVA come tante altre acciaierie nel mondo che non producono malattia e morte come l'ILVA. Insomma, sono moltissime notizie. Vi ho già fatto un panorama molto ampio, anche se sintetico. Qual è la vostra notizia? 800 24 00 24. Ma Come sempre vi voglio anche raccontare intanto come ultime ore vedo sui siti, per esempio a Cuba, fermati 4 inviati italiani che erano andati per indagare sugli omicidi di Lignano, di 2 fratelli cubani che avevano ucciso 2 anziani a Lignano. Sono stati prima catturati, poi rilasciati, ora ci sarà il processo. Intanto, a proposito di processo, è iniziato quello in Vaticano contro il famoso Corvo. Ma come sempre vi dirò che c'è qualcosa che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Allora, voi sapete che da tempi immemori si mette una taglia per i ricercati, dall'antico Far West fino, insomma, ai tempi nostri, non tanto in Italia, ma insomma, anche se si perde qualcuno, a volte è un gatto, non solo un delinquente, uno mette una taglia su, nel senso un'offerta, no, di soldi, se me lo ritrovate, eccetera eccetera. Cosa è successo invece proprio ieri la notizia che questo magnate di Hong Kong, ultramiliardario, uomo d'affari, cosa ha detto? Voglio mettere una taglia per far sedurre mia figlia. Qualcuno si candidi per sedurre mia figlia, che è lesbica. Questa vive da 7 anni con la fidanzata, felice e contenta, a 33 anni. Lui ha offerto $50,000 per chi seducesse la figlia. Lei dice, è semplicemente ridicolo, lo affermiamo, è semplicemente ridicolo. Mi piacerebbe vedere tutti questi pretendenti che cercano di sedurre una donna che ha le sue idee ben precise. E lei insomma sta pregando che ci sia un enorme blackout, perché arrivano centinaia e centinaia di mail, di messaggi, di sms per cercare di proporsi e di sedurre questa ragazza. Sarà interessante vedere come finisce la storia, ma già lo immaginiamo. Quindi questo ce lo conferma, ma signore e signori, vorrei naturalmente presentarvi immediatamente l'opinionista di oggi. Ebbene sì, è Mario Secchi, l'opinionista estemporaneo di oggi. Caro Mario. Caro Mario, direttore del quotidiano Il Tempo. Che tempo fa a Roma a proposito di tempo? Caldo. Come caldo? Molto bello, caldo. Qui piove, grigio, grigissimo, l'autunno ormai è iniziato, non c'è speranza. Ti però sento anche qui l'autunno, perché non se ne può più. Mario, però c'è come del vento, un phon acceso, ti stai asciugando i capelli perché sento un rumore strano. Adesso? Insomma, così. Meglio? Sì, un po' meglio. Paolo Corleone dalla parte tecnica mi dice è accettabile. Adesso è ancora più accettabile. Caro Mario, io ti volevo chiedere subito, no, sono piena di interrogativi ancora più. Che è sta cosa? Com'è che quando ci sei tu c'è sempre qualcosa che suona? Che tu sei pieno di allarmi, sei un allarme umano. Non mi allarmare così. L'altra volta che ci avevi i sensori della macchina, stavo, sì, non lo so, il microonde. No, io sono fermo, sono nel mio ufficio al giornale. Non è un fornetto microonde con la matriciana dentro. No. Vabbè, ti volevo chiedere subito, tra le mille domande che ho in mente, proprio mi esplodono nella capoccia. A te piace andare in cartoleria? Sì. Tu sei uno faccio che poco, ma è bella. Mi piace la carta. Ti piace la carta? Sai quel profumo anche di quaderni, di libri? Sai che al salone del profumo che c'è stato a Firenze nei giorni scorsi, addirittura hanno ideato un profumo che sa di libro nuovo. Ecco, se io lo trovassi me lo comprerei. Ma è tutta cosparsa di questo libro nuovo quando giro. No? Tipo, che tipo intellettuale con tutto questo profumo di libro? Ti piacerebbe? Non lo so, io preferisco il profumo del libro vecchio. Ah, vecchio? È il libro vissuto addosso, ha più fascino. Sì, ma addosso non è il massimo l'odore di libro vecchio. Proprio uno dipende. Sì, la sua fascina. Se ci metti un po' di tabacco, per esempio. Te lo chiedo perché se tu vai in cartoleria e vai volentieri, spendi volentieri, perché fra penne, le mille libri, queste cose qua, penne, libri, carta, quaderni, carta. Quelle gommine profumate, non so se ci sono ancora, no, quando ero piccola. No, le gommine profumate. Io scrivo con la penna. Con la penna e non si può cancellare, una volta che lo dici che lo scrivi, basta. Perché è fiorito fra le mille cose che sono venute fuori su questo consigliere regionale del Lazio, una comica plateale, se non ci fosse da piangere, e, tra le varie spese, case, privilegi, ostriche, quel che vuoi, ha speso anche €4,000 in una cartoleria. Ora io mi chiedo, ho provato a entrare ieri in cartoleria, mi guardavo intorno e pensavo cosa potrei comprare per spendere €4,000 che non ho. Una borsa di pelle, una bella penna stilografica, non ci vuole niente. Dubito che Fiorito abbia comprato per sé della carta per scrivere. Dici, magari delle lettere d'amore, pregiata carta per scrivere. Le gommine profumate, neanche lui non c'è rischio. No, ho pensato, non te lo vedo magari proprio. È un appassionato. Senti Mario, invece di cosa faresti il bis tu? Io farei il bis di Monti. Ah, ecco. cioè, subito hai capito, io pensavo a fare il bis della carbonara, di un tramonto. No, io farei il bis di Monti, perché vista la situazione attuale dei partiti cerco di prendere una cosa che fa meno male possibile. Senti, Berlusconi non è convintissimo, però era un po' incerto, dice dipende dalla legge elettorale. Tu invece, tu subito dici Monti bis, ti va bene. Scusate, io sfido chiunque, guardate che cosa sono i partiti, se i partiti presentano qualcosa di meglio lo valutiamo, però allo stato attuale, oggi, di sabato, la data che è, 29 settembre... Compleanno, compleanno tra l'altro di Berlusconi e Bersani, auguri a tutti e due comunque, no? Civilmente, diciamo, auguri a tutti e due. Super partes. Sarà pure auguri, però la loro offerta politica è antidiluviana rispetto alla contemporaneità. Siamo d'accordo, perfettamente, Mario. Guarda la situazione dell'economia reale. L'economia reale è a pezzi. Poi, tra l'altro, questo è uno dei limiti messi in mostra dal governo Monti, a fianco a dei pregi invece. Però io, francamente, ho qualche difficoltà, diciamo così, per usare un eufemismo, a immaginare un ritorno dei partiti a Palazzo Chigi in questo momento. Senti, Fiorito, fra l'altro, scusa se mi sta particolarmente simpatico e quindi mi sta come protagonista nei pensieri, dice che andrà in pensione a 50 anni, io penso sui 75 per quel che mi riguarda, non so tu, ai 50 anni con vitalizio da 4.000 euro, oltre a tutto quello che ha già. Io spero invece vivamente che lui in pensione con i miei soldi e i tuoi soldi e quelli di chi ci ascolta non ci vada. Anch'io lo spero, come si può fare? Auspico una riforma della legge regionale che gli dà il vitalizio, di quelle che gli tronca immediatamente questo assurdo privilegio, perché è una cosa vergognosa, ma lo sapete che quelli che sono che adesso vanno a casa con due anni di legislatura beccano un vitalizio da 3.000 euro, una sorta di win for life, è vero, per cioè, tutta la vita. Questo è altro mai? Che turista per sempre. 3.000 basta... euro, ma oggi io non so se avrò la pensione, tu Roberta, visto che sei tu pure una giornalista, pure chi ci ascolta fa sicuramente le capriole e i salti mortali per mandare avanti la baracca, e noi dobbiamo anche guardare un obbrobrio del genere. Eccomi, tornata dal bagno, però diciamo che ce n'è, se si volesse ancora, 800 24 00 24, Roberta Giordano con voi qui a Radio 24. Non ci sono più le mezze stagioni, sino alle 15 con il direttore del Tempo Mario Secchi, opinionista estemporaneo di oggi. Leggevo anche, ma sentivo, cioè, è infinita questa cosa, e questo deputato del PDL, Roberto Rosso, che raccontava in una TV locale lombarda, Telelombardia credo, che un collega del consiglio regionale del Piemonte era andato in vacanza da lui a Sestriere a fare la settimana bianca, eccetera. E lui che cosa gli ha raccontato così bellamente? Sono proprio imbelli questi, proprio senza pudore. Che cosa gli ha raccontato questo consigliere? Che facendo le vacanze da lui guadagnava 1.000 euro al giorno, perché era un rimborso, insomma, un rimborso che riceveva dalla regione Piemonte. Quindi 1.000 euro al giorno, si è fatto 5 giorni di vacanza, 5.000 euro al giorno. Quindi io mi fermerei per il momento qui su questa cosa, Mario, non so tu, perché veramente mi riprende un altro attacco, non posso assentarmi. No, ma se vuoi ti aggiungo, mentre siamo in diretta, ti completo la bella giornata. Sì. Che Fiorito aveva a disposizione una BMW pagata 88.000 euro con i soldi dei contribuenti. Va bene, vuoi che continui? No, non continuare, però dimmi in tutto questo, a parte anche le richieste. Si è anche fatto 154 bonifici senza causale a suo nome per circa 1.000.000 di euro. Vuoi che continui? Guarda, continueranno gli ascoltatori. Ma non è solo lui, tra poco. Il problema è che non è solo lui. No, infatti, questo, non ci sono le mele marce, come diceva qualcuno in questi giorni sul Corriere, no, mi sembra. Così, è tutto è il cesto, sistema. È un cesto enorme. Senti, Mario, ma in tutto questo, prima di sentire Marina da Roma, Riccardo da Rovigo e gli altri ascoltatori e ascoltatrici all'800 24 00 24, ma Renata Polverini, ex presidente della Regione, come ne esce secondo te da tutto questo? Perché ho visto, ci sono i manifesti per Roma, non so se tu li hai visti, con la sua bella faccia, anche un po' tosta, che dice: questa gente la mando a casa io, ora facciamo pulizia. Allora, ci sono, qua la situazione diciamo è un po' più articolata, nel senso che è vero che il Consiglio rispetto alla Giunta è autonomo, ed è anche vero che lei in passato aveva più volte manifestato disappunto e fastidio per come veniva condotto il Consiglio e per le decisioni che prendeva. Però è anche vero che in Consiglio poi c'è anche la sua lista. Certo, no? Comunque un minimo di controllo. No. Non è che non aveva un tramite dentro il consiglio per cui non poteva controllare, sapeva che questo succedeva. Ovviamente lì c'era una situazione meno matta in partenza, perché sapete tutti che la lista del PDL fu esclusa per dabbenaggine degli stessi presentatori del PDL, tra l'altro, perché in provincia di Roma sbagliarono i tempi di consegna, e quindi la situazione in partenza era difficile. Poi dopodiché si sono votati un aumento di 14 volte l'utilizzo dei fondi. Possibile per i che non ne sapesse nulla, su. È difficile, no? Cioè, voglio dire, ci sono le delibere e tutto. Lo sapeva, poi ovviamente c'è la Realpolitik che dice: ma se io faccio scoppiare vado a casa. Buona in maniera va giù, la giunta va giù. La realtà è che quando io, ma altri colleghi, eccetera, abbiamo visto che cosa stava succedendo, la prima cosa che abbiamo scritto è: ma è meglio che si dimetta subito. Ha provato a resistere. In realtà non c'era niente da fare. Intende ricandidarsi, poi vedremo i cittadini e le cittadine come decideranno. Ma vero, sempre per essere, diciamo, corretti, sì, fino in fondo, è l'unica che si è dimessa. Sì, almeno quello. Cioè, in un paese dove non si dimette nessuno. Siamo d'accordo. Marina da Roma. Cara Marina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Marina. Tu l'hai visti questi manifesti in giro? Io cerco, non è questa la cosa che in questo momento mi indigna. Benissimo. Di più, perché disgraziatamente da 20 anni a questa parte siamo, non dico abituati, ma insomma il mio grado di indignazione è arrivato a livelli che da tracima del Tevere proprio, quindi non è proprio possibile. Una cosa che mi indigna molto di più e mi fa capire quanta poca stima si abbia nei confronti dei cittadini è il caso creato ad arte Sallusti. Del direttore del giornale. Che ci siano, che voi siate due giornalisti, se casta non ci deve essere, non deve essere casta da nessuna parte. Questo caso è stato creato ad arte, ci sono stati anni per chiedere scusa, per ravvedere. 6 anni. Appunto, e da parte di entrambi i facenti causa, io non voglio passare per cretina. E tutto ciò è servito appunto perché se ne parli, perché tutti abbiano tracimato e abbiano detto no, è una vergogna. I 14 mesi di reclusione che gli hanno affibbiato. Non è un reato di opinione, non si trattava di opinione ma di un falso. Noi cittadini siamo ancora capaci di discernere la differenza, almeno in italiano se non proprio in un'altra lingua, no? Per cui il signor Sallusti ha creato, per affari suoi, forse perché si parlava un pochino meno, per quanto lo veda spesso, io cerco di essere neutra, mi riesce difficile, devo dire la verità, e trovo tutta questa situazione, aver tirato per i piedi il capo dello Stato e tutti quanti che si sono affrettati, poverino, per carità, io lo trovo invece poverino per niente, e ricordo a tutti i giornalisti, a chi ha comunque in mano la possibilità di rivolgersi ad altri, che le parole sono pietre che fanno molto male e possono distruggere una vita. Volevo soltanto dire questo. Grazie Marina, è stata chiarissima. Effettivamente è un caso estremamente interessante di questa settimana, no, caro Mario? Sì. Che ne pensi tu di questa vicenda? Ma che non condivido quanto ha detto la signora nella parte del carcere, perché allora siamo nella seguente situazione. Ladri piuttosto conclamati fuori e un giornalista per 14 mesi dentro, e a me non mi pare un principio di civiltà giuridica questo. Non sono neanche di quelli che dice tutti dentro perché è una facile demagogia. Non esiste paese occidentale in realtà con una legge sulla diffamazione e i risarcimenti così dura e sbagliata come quella italiana, e posso portarne ampie prove visto che faccio il direttore di un quotidiano da parecchio tempo e questa è la mia seconda direzione responsabile e ho fatto il vice direttore e il condirettore per molti anni, quindi so di cosa parlo. È una legge folle dal punto di vista pratico, perché è una legge nata quando i giornali avevano poco più di 8 pagine, e le dico solo il mio caso, cioè io dirigo un giornale che ha 2 edizioni, fa 80 pagine al giorno, 300 articoli al giorno, più migliaia di notizie. No, ma su questo scusami se ti interrompo, potenzialmente impaginabili, siamo d'accordo. No, è importante, potenzialmente impaginabili che io devo cercare una per una quando le pubblico, quindi già neanche Mandrake riesce a fare una cosa del genere. Dopodiché? Dopodiché, sul caso di Sallusti, l'unico vero, secondo me, punto sul quale la signora ha ragione sono le scuse. Perché l'articolo ha una notizia sbagliata. Molto diffamatoria, diciamo la verità. Esatto, questo magistrato, scusa Mario, per chi non lo sapesse, sintetizzo molto velocemente, se dovessi raccontare tutte le notizie di cui parliamo, poi non c'è tempo, però avrebbe scritto, è venuto fuori in questi giorni, Renato Farina, no? Deputato del PDL, radiato dall'ordine dei giornalisti perché aveva a che fare abbastanza, diciamo, frequentemente con i servizi segreti, si faceva chiamare Betulla, adesso si è fatto chiamare Dreyfus con quest'ultimo articolo. Aveva scritto questo articolo 6 anni fa, molto diffamatorio, nei confronti di un magistrato, Cocilovo, che aveva autorizzato l'aborto di una ragazzina di 15 anni, 14 anni, il padre di questo Su richiesta della sua famiglia, di lei e della famiglia, mentre Farina aveva scritto che l'aveva il magistrato imposto. Forzata ad abortire e aveva auspicato la pena di morte per il magistrato, per il ginecologo e per la famiglia della ragazza. Ora, mi pare una cosa gravissima comunque, riconosciamolo come giornalisti, non si può distruggere una persona. Io non avrei avuto difficoltà, nel senso che se fosse capitato a me un infortunio del genere... avrei certamente chiesto scusa. Ecco, non l'ha mai chiesta, ma neanche Sallusti ha mai chiesto scusa in questi 6 anni. No, lui non l'ha mai chiesta, però questo, scusa Roberta, c'è sempre una misura. La misura è che tu non lo spedisci in carcere. No, sul carcere siamo d'accordo, anch'io dico, mi sembra assurdo. Io sono però per le chiedere scusa e pagare una bella sanzione di soldi, soldoni, mi pare il minimo su una cosa così. In 6 anni, ecco. Però attenzione, perché poi siccome la libertà di stampa è uno dei fondamenti della democrazia e non a caso la miglior democrazia del mondo la tutela con parti speciali, diciamo così, cioè la Costituzione degli Stati Uniti per intenderci, allora noi dobbiamo stare molto attenti, perché non è il caso personale di Sallusti che a me interessa. A me interessa difendere il principio per cui la libertà di stampa non viene menomata, perché metti dentro il direttore di un giornale oggi e ne metti dentro uno domani. Sono d'accordo. L'importante, Mario, è distinguere tra libertà d'opinione e libertà di diffamare le persone. Se sbagli, dalle mie parti almeno, poi ognuno si regola come vuole, ma se sbagli tu devi essere capace di riconoscere l'errore e pagare, di chiedere scusa nel caso, chiedere scusa, e di risarcire, di fare una rettifica. Fai una rettifica, il povero magistrato non c'entrava niente. Certo, no? E poi ci sono dubbi, scusa, fa parte della correttezza del mestiere. Certo, e chiudo questa vicenda dicendo: non ho mai sentito Renato Farina indignarsi o spiccare la pena di morte, per esempio, per tutti quegli uomini che ogni 3 giorni in Italia uccidono la moglie o la fidanzata. Tra l'altro, scusa, sempre per principio di civiltà. Neanch'io l'auspico. L'Italia ripudia la pena di morte. Però Farina, visto che concorde con la pena di morte in questo caso. Per essere schietti fino in fondo, mi sorprende che Farina non abbia detto subito che era lui l'autore dell'articolo. C'erano 6 anni di tempo. E ha aspettato la condanna di Sallusti a 14. Un po' infame, come dice Bentana. Riccardo da Rovigo all'800 24 00 24. Riccardo. Ah, buongiorno, dottoressa. Leggo un po' la sintesi della lettera di Lavitola, che mi interessa molto di più come fatto politico, piuttosto di disperdersi in banalità. Stavamo banalizzando. Ma dai, il problema Sallusti è legato a Berlusconi. Mi stupisco che lei perda il tempo con Mario Secchi. Dopo le dico i titoli del tempo. E ci piace perdere tempo così a noi, Riccardo. Vabbè, uno che ha sempre difeso Berlusconi, cosa vuoi parlare? Allora, ma... 500.000 euro per distruggere Gianfranco Fini, un'incessante opera per comprare le signature del centro-sinistra ad epoca del governo Prodi. La distruzione di foto di Silvio Berlusconi con alcuni camorristi. E ancora informazioni a Clemente Mastella sull'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Questi sono alcuni punti contenuti nella lettera di Walter Lavitola, che voi sapete bene, sul discorso Tarantini che portava le puttanelle a casa nella villa di Berlusconi. Così pare, leggo poi i titoli del Tempo Online e leggo: Fratelli coltelli nella regione Lazio, Fiorito finanziava gli avversari del PDL. Fiorito è un prodotto del berlusconismo, lo dica Mario Secchi che l'ascolta. Poi vediamo un altro titolo del Tempo: assessori e consiglieri a casa, ma con la pensione in tasca, le regioni sono ad abolire. cioè non leggo niente che riguarda questa faccenda della vittima, sembra che al tempo il Mario lo dica a sé che no, lei non legge no, non gliene frega niente, oggi... non gliene frega niente Riccardo, lui deve difendere il centrodestra, non mi pare che l'abbia difeso, ha detto che ma anche Berlusconi non ha nessuna offerta politica. Guardi, il centrodestra cerchi, parliamoci chiaramente, lei deve fare giornalista, non è che stia lì a difendere Saluzzi. Riccardo, non mi pare che l'abbia difeso, ha detto anche lui che è d'accordo, che insomma c'è differenza tra... ha tirato fuori l'aspetto giuridico, sai benissimo. Beh, che nella... cioè... Riccardo, allora, ascolta, va bene, no, lasci parlare, il combinato disposto legislativo che ha tempi stretti, a Riccardo. Condannare Saluzzi sì. È legato anche alla legge Cirielli, lo sa, no, Secchi? Sì. Ma cosa c'entra la legge Cirielli? Riccardo, sta facendo un pasticcio pazzesco. Questa no, è la legge segue. Sulla stampa del 48, allora, la perde. Parli di cose norma. Che conosce. Cioè, lei, di cosa sta parlando? La sentenza della Corte di Cassazione fa riferimento al codice penale. E cosa c'entra la legge Cirielli? Perché lei sta prendendo un granchio? Riguarda la diffamazione, studi, ma che la legge Cirielli? Ma guardi che non c'entra niente la legge Cirielli, lei sta prendendo un granchio con mi permetto di intromettermi, Riccardo, ti ringrazio, hai detto tutto quello che dovevi dire con una certa forza. Mario, prima di questa pausa che abbiamo tra pochi secondi, no, scusa, prego. Siccome, cioè, sì. Io ce l'ho in prima pagina, la vitola, quindi. Ma sì, tutti ce l'hanno, tutti i giornali ce l'hanno in prima pagina, quindi. Non c'è nessun problema. Ah, bene, Roberta tra poco dalla provincia di Pisa. Adesso Paolo Corleone mi confermi la parte tecnica che abbiamo. Sì, una piccola pausa ce l'abbiamo, se no dobbiamo collegarci con un altro pianeta? Quali due? No, dopo ci colleghiamo col pianeta. Quante notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, quanta foga, mi affogavo anch'io nell'esprimere le vostre opinioni, può fare anche diciamo, un pochino più di serenità. 800 24 0024, anche se mi rendo conto che tante cose possono indignare non poco, poi dipende dai punti di vista, da chi ha ragione, da chi ha torto. E, prima di avere questo collegamento extraplanetario e di tornare a parlare con l'opinionista estemporaneo di oggi, che è il direttore del Tempo, Mario Secchi, volevo sentire Roberta dalla provincia di Pisa. Sì, pronto? Sì, sono qua Roberta. Sì, pronto, cara omonima, buonasera e grazie per l'opportunità. Grazie a te. Io volevo intervenire sì. Sull'argomento amnistia e indulto per dire che non sono affatto d'accordo con questo provvedimento, perché vorrebbe dire vanificare la giustizia e diciamo affermare che la legalità in Italia proprio non esiste più, primo punto. Avrei una proposta da fare in alternativa. Sì, sentiamo. Siccome la popolazione dei detenuti è in grossa percentuale costituita da extracomunitari dentro per reati di spaccio e quant'altro, io proporrei, anziché la detenzione, al posto della detenzione, proporrei di rispedirli direttamente al loro paese. Non con i sistemi che vengono adottati attualmente, cioè il foglio di via o i 1.000 euro per il viaggio, ma con sistemi ben efficaci, concreti, che assicurino effettivamente il rientro di questa gente al loro paese. E penso che la spesa sarebbe molto inferiore che tenerli qui nelle carceri o a delinquere. Io ho anche un po' il dente avvelenato perché ho un'esperienza diretta con questa gente che mi ha distrutto l'esistenza, anzi... adesso non mi viene in mente il termine, ma contro, non so, queste istituzioni che concedono sti permessi facili, perché io dico, come fa certa gente che non lavora, che è dedita ad attività poco chiare e molto redditizie, che la si vede seduta al bar tutto il tempo, come fa ad essere qui con un permesso di soggiorno, ottenere la residenza, beneficiare di tutti i le agevolazioni, i sussidi e quant'altro, i servizi sociali a carico dei cittadini italiani, impunita, completamente impunita. Chiusa la parentesi, volevo dire che questa mia proposta è in linea con quanto già in vigore sembra in Svezia, da voci di cittadini residenti con cui ho avuto modo di parlare, sembra che in Svezia da anni adottino questo sistema, cioè gente extracomunitari, così stranieri, che si macchiano di reati, anziché metterli in galera lì, li spediscono al loro paese. E gli svedesi non è che siano un popolo retrogrado, insomma, abbiamo parecchio da imparare da loro. Roberta, sentiamo che ne pensi. Dimmi. Sì, concludiamo. Sì. volevo anche dire che mi sembra anche in sintonia con una proposta che poi non, di cui non si è più sentito parlare, una proposta di legge, provvedimento, da parte del ministro Severino alcuni mesi fa, che diceva appunto quanto sto dicendo io. E che ma lei parlava, mi sembra, la Severino, non so se del braccialetto elettronico o di qualcos'altro, adesso ho tante ma cose... Ma che braccialetto? Questi devono essere rimpatriati. Però non mi sembra che fosse d'accordo con te, Roberta. Ti ringrazio intanto. Mario Secchi, prima del collegamento con un altro pianeta, volevi dire qualcosa sull'amnistia e l'indulto che prospetterebbe Napolitano per sfoltire un po' le carceri? Uno Stato forte deve essere capace anche di perdonare, questo è un principio importante, perché uno Stato che non riesce a perdonare non è forte. C'è il tema della civiltà della pena, che è un altro aspetto molto importante. Io sono stato a visitare tante volte le carceri e insomma, parliamoci chiaro, tutto si fa lì dentro tranne che rieducare, questo è un altro dato importante. Sono d'accordo sulle pene alternative, sicuramente, sui rimpatri, attenzione, perché c'è un problema anche qui di civiltà giuridica, essendo molti extracomunitari. Il nostro ordinamento prevede, l'ordinamento internazionale, le leggi internazionali prevedono che non si applichino pene più sfavorevoli e condizioni più sfavorevoli per questi detenuti, che magari rientrando potrebbero andare incontro anche alla morte. Al netto di tutto questo è chiaro che c'è un problema nel sistema penale italiano, le carceri sono sovraffollate, l'esempio della Svezia francamente è improponibile, la Svezia è un paesetto con 10 milioni di abitanti, noi siamo la terza economia d'Europa con 60 milioni circa di abitanti. Sono due ordini di grandezza totalmente diversi e improponibili. Voglio dire, la Svezia ha un PIL che è al 32esimo posto, di cosa stiamo parlando? Mentre ricordo il numero verde che è 800240024, Mario Secchi, prima di sentire Daniele da Roma e le altre ascoltatrici e ascoltatori, vorrei specificare una cosa però, per dare il senso che la giustizia funziona e che è giusta, forse Mario, rispetto all'indulto di qualche anno fa, quando avevano promesso che non sarebbero usciti, oltre ai mafiosi, anche stupratori, assassini, eccetera, di stupratori ne è uscito qualcuno. E mi ricordo anche il caso di un uomo, ma quello perché è venuto fuori, chissà gli altri, che aveva tentato 6 anni prima di uccidere la moglie, poi l'hanno liberato e ha portato a compimento la sua opera. Ecco, almeno assicurare che ci saranno dei distinguo molto chiari, molto severi. Roberta, posso dire una cosa rapida, un flash. Sì. A provvedimenti come amnistia e indulto, che si possono anche contemplare, ripeto, uno Stato forte può contemplarli, va associata una riforma del codice penale, del codice di procedura penale e soprattutto una riforma del sistema carcerario italiano, che è a detta di tutti, signori, è una vergogna, cioè, parliamoci chiaro, le lotte che fanno i radicali ed altri partiti su questo sono sacrosante. Allora, adesso invece sì, è pronto il collegamento, molto bene. Riflessioni da Marte. Mentre vari umani si ostinano a cercare acqua qui su Marte, senza chiedersi però se ci sia vino su Venere, da quassù da Marte è ben più interessante, diciamo, invece puntare come sempre il telescopio sul globo terraqueo, diciamo che ci scrutiamo a vicenda da un pianeta all'altro con curiosity. Ma sulla Terra vi sono ben altri spunti, e in specie su territorio italico, dove colmo della iattura e comicamente fuori misura non c'è più posto neanche per gli eroi, a parte il comandante Schettino, che dice di aver evitato il peggio grazie alla mano di Dio che ha sentito sulla sua fulgida capoccia, e nemmeno i supereroi di carta sopravvivono più per dare, che so, un po' di speranza, un po' di evasione che non sia solo quella fiscale. Prendete Batman. Egli era un supereroe dall'effigie longilinea e notevolmente muscolosa, non per fare erbullo, ma per combattere implacabilmente il crimine e far trionfare, quindi, la giustizia. Ricco, molto ricco di suo, senza però dare troppo peso ai dobloni, senza bisogno e vocazione di razziare soldi pubblici per comprarsi case di lusso, privilegi inarrivabili, vacanze lunari, divorando ostriche e code alla vaccinare innaffiate da fiumi di champagne. Per brindare a un incontro. E ora invece, dopo il polverone Polverini, il mito crolla miseramente e si scopre che Batman è in realtà un signore imbolsito anzitempo e fiorito, che famelico come non mai si nutre di lussuosi banchetti greco-romani e di cospicue quantità di denaro pubblico, al quale Batman, insieme a vari compari, sta a cuore più che il trionfo della giustizia, il tripudio delle sue tasche, e che più che pronto a intervenire là dove c'è bisogno, è pronto a esaudire ogni suo bisogno a spese altrui. Insomma, un Batman che di questi tempi alquanto dozzinali diventa Air Batman e che alla sobria maschera da pipistrello preferisce quella da porcello. E pensate che deve essere così poco gradevole stare nelle vicinanze di buona parte della classe politica italica che per lavorare al Senato, poliziotti, carabinieri, pompieri, postini, bancari prendono, oltre allo stipendio, un'indennità detta indennità di palazzo che può arrivare sino a 2.500 euro oltre al loro stipendio. Altro che poliziotti che fanno servizio in strada contro la criminalità nel palazzo, al Senato. Deve essere ben peggio se hanno diritto a questa indennità. E ancora forse non basta per campà stipendio e indennità, dal momento che il direttore delle poste del Senato, per arrotondare ulteriormente, spacciava, si è scoperto in questi giorni, polverina bianca. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Ed eccoci qui, ritorniamo coi piedi per terra mentre arrivano centinaia e centinaia di telefonate alla nostra Nadia Zammitti e anche Rosina al centralino, è piena di telefonate, quindi diamo spazio ancora all'800240024 a Daniele da Roma. Buongiorno Roberto. Buongiorno Daniele. Bella voce, brillante conduzione. Grazie. E soprattutto non tratti i radioascoltatori come lobotomizzati come fa la gente di sera a Radio 24, quindi mi permetto di portare avanti un discorso non dico articolato ma insomma con una certa, un certo senso. Io abito a Roma e vedo questo teatrino di Demi Vierge che si scandalizzano e poi una regione cade e poi l'altra e poi l'altra e poi l'altra come ai tempi di Tangentopoli, come se tutti non sapessero che le regioni sono fogne di denaro pubblico eccetera eccetera. Io invece che di crimini, cioè peculato, vorrei parlare di legalità, cioè la Polverini ha tappezzato in tempo reale in un giorno Roma con affissioni abusive, tutta Roma con la sua grinta e col suo grugno, con la scritta ripuliamo Roma, adesso ci penso io a ripulire. Io vorrei parlare di legalità. Non so se voi lo sapete, ma Alemanno ha fatto un'ordinanza per cui una piccola associazione mette 4 volantini e becca 400 euro di multa ogni volantino. E io sono uno di quelli che ha tipo 1600 euro di multa per il decoro urbano, mentre invece che questi partiti che hai fatto, scusami, si sono sanati tutta la pubblicità elettorale mostruosa di sovrapposizioni, di abusi, di cose uno sopra l'altro, tonnellate di carta che infesta Roma, con una multa di 7.000 euro. Allora, finché noi non parliamo di legalità invece di queste grandi querelle che fanno la curva sud e la curva nord in Italia, i programmi, le cose, i miliardi e tutte queste cose qua. Cioè, questa persona adesso si pretende di essere quella che pulisce Roma quando la sta imbrattando facendo degli abusi previsti dalla legge, che però i partiti si sono sanati con una leggina con cui con 7.000 euro si sanano una quantità di multe che sarebbero di milioni di euro. Io non lo so. Quindi a questo punto io mi ricollegherei al discorso dell'amnistia e dell'indulto, tutta questa storia della paura che esce la gente. Se lo Stato stesso non è in grado di rispettare la sua legalità, e cioè viene condannato tutti i giorni dalla Comunità Europea perché lo Stato delle carceri è fuori legge e prefigura la tortura, deve fare un'amnistia perché è in dovere di farlo. Non può comminare pene a gente che fa delle azioni che non si devono fare se egli stesso non esce dalla flagranza di reato, punto e basta. Finché si parla di cazzate, quello ha speso le ostriche e la pagliata, cazzate fino a un certo punto, Daniele, ci sono milioni di milioni. Comunque Daniele, chiarissimo il tuo concetto, sento la tua indignazione. ti ringrazio. Adesso dobbiamo aggiornare nuovamente chi viaggia, però prima annuncio a Mario Secchi, poi ci risentiamo subito dopo. Conferma Stefania Prestigiacomo, ex ministra e deputata del PDL, che lascerà il PDL. Dice Gelmini sa meglio di me che per riempire le sale e parlare di contenuti bisogna lavorare fuori dal PDL. Quella nomenclatura ha fallito, lo sa anche Berlusconi, è solo lotta fra bande e a tutto pensano tranne che ai problemi della gente, mentre il nord soffre, il sud affonda. Sempre Roberta Giordano con voi, abbiamo ancora diversi minuti per commentare insieme i fatti della settimana con l'opinionista estemporaneo di oggi che è Mario Secchi, direttore del Tempo. Mario, che ne pensi di questa queste forze centrifughe, spinte centrifughe, tentazioni scissioniste che stanno disgregando sempre più il PDL, ultima per il momento Stefania Prestigiacomo? Ma è tutto nella logica della fine di un sistema politico. Noi stiamo assistendo alla fine di 20 anni di berlusconismo e anti-berlusconismo, per cui c'è un rimescolamento completo delle carte della politica. La cosa che è evidente è che siamo di fronte a una crisi di sistema, non solo di un partito, che certamente è in crisi come il PDL. Qui c'è molto di più, perché come vedi la situazione per esempio che si sta evidenziando nelle regioni, che giustamente diceva l'ascoltatore prima, era nota, come se era nota, ed è stata documentata da anni e anni di inchieste che abbiamo fatto in tutti i giornali, tra l'altro io ne ho fatti 7 di quotidiani, e insomma in ogni posto dove andavo noi si faceva le campagne sugli sprechi, sui fondi che non funzionavano e così via. Ti informo, purtroppo, però, purtroppo siamo arrivati a questo punto. Mario, sai che ti informo che una nuova proposta politica arriva, non so se potrebbe essere la soluzione, torna Cicciolina in campo con suo marito, chiamano il sexy avvocato Luca Di Carlo, che dice voglio tornare in Parlamento con un movimento che si chiama DNA, cioè Democrazia, Natura e Amore. Tutto un programma, dice, per aiutare i più umili, le fasce, intanto per riaprire le case chiuse, ne sentivamo anche di questa la mancanza, però dice che ha una certa simpatia per Berlusconi che trova simpatico ed elegante, si sa mai che si possa nascere una qualche coalizione. Sentirei adesso il nostro Don Severino, senza dubbio, sentiamo Don Severino da Potenza, che c'ha da dire questa settimana, Don Severino. Pronto? Eccoci. Ciao Roberta, ciao. Saluto a tutti. Che ho da dire? Semplicemente questo, che io onestamente mi meraviglio che tutti si meravigliano di questi scandali. Io invece, siccome le mie cose sono registrate come tutte, io dico agli italiani di non meravigliarsi più di tanto, ma di aspettarsi a un qualcosa di più grave, cioè a dire, quando i potenti vengono così attaccati, io non mi meraviglierei che presto o tardi ci sia qualche attentatuccio, qualche terrorismo vago. Perché? Perché i potenti non vogliono essere attaccati così. Quindi io dico, attenzione, non meravigliatevi più di tanto. In più, per quanto riguarda la Chiesa, anche la Chiesa è così meravigliata. Ma non dimentichiamoci che ha sponsorizzato Berlusconi, poi ha sponsorizzato la Polverini, ha sponsorizzato anche Monti. Quindi insomma, voglio dire, non è che la Chiesa ci azzecca tanto nelle sponsorizzazioni, per cui ripeto, attenzione italiani, io sarò contento solo il giorno in cui gli italiani, anziché andare a comprare gli iPhone, scendono nelle piazze con o senza forconi. Grazie Don Severino. Mamma mia, speriamo no, questi orizzonti funesti così, insomma, un po' inquietanti, non si possono avere. Questa è la lettura di Don Severino e adesso vorrei chiedere molto sinteticamente, perché il tempo corre, perdonami, Valeria della Valle della Sapienza di Roma, linguista, la parola che ti sottoporrei è diffamazione questa settimana. Sì, certo, parola di grande attualità e parola molto antica, del resto viene dal latino e il verbo era diffamare, quindi togliere la buona reputazione. La parola diffamazione, quindi passiamo subito al sostantivo, anche questa è molto antica, la troviamo già all'inizio del 300 proprio col significato di offesa alla reputazione di qualcuno, e oggi la parola è di grande attualità e in senso ancora più grave. Qui si indica con questo termine non solo l'offesa alla reputazione ma un vero e proprio reato. In conclusione cerco sempre un elemento di conforto questa volta all'uso di una parola, questa volta ne ho pochi, però almeno uno, dal fatto che si debba risalire dire, per l'origine della parola al latino, insomma, non si tratta di un vizio, di una cattiva abitudine dell'età moderna, ma di un malcostume sempre esistito, quello di diffamare, e quindi ecco la nostra parola, diffamazione. Grazie Caravellina della Valle. Grazie e arrivederci. E adesso abbiamo quei pochissimi secondi. Massimo da Roma, tu riesci? Intanto ricordo che potete continuare a commentare i fatti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, è sempre lì, potete risentire la puntata dal lunedì sul sito di Radio 24 oppure sulla stessa pagina Facebook. Massimo, puoi dire solo il titolo della tua notizia e poi ci risentiamo magari settimana prossima con un altro fatto? Sì, Roberta, ciao, sì. Buonasera. Buonasera. Tanto, tanti complimenti perché veramente siete una delle poche trasmissioni che veramente fanno onore all'Italia. Il mio titolo è solo questo, ma i politici sanno quello che vogliono gli italiani? Il problema è che forse la risposta è sì, e questo è un grosso problema, perché non lo fanno. Massimo, tu sai, tu da italiano cosa vuoi, per esempio? Io da italiano vorrei che si smettesse di dire tutte queste bugie. La Polverini sapeva perfettamente che io sono vivo a Roma, perfettamente che cosa si spendeva. Come lo sapeva Esterino Montino che cosa si spendeva? Oggi tutti si scandalizzano e tutti vogliono pulire. Che cosa? Quello che loro sapevano di spendere l'hanno fatto volontariamente? È lo stesso, e sono d'accordo anche con l'ascoltatrice che parlava delle carceri. Basta, siete sicuri che gli italiani vogliono pagare con le loro tasse anche il carcere degli extracomunitari? Non perché siano extracomunitari, ma per tutti, perché... diciamo, per tutti. Massimo, ti ringrazio moltissimo, però volevo chiedere in chiusura al nostro Mario Secchi. Mario, questa è una domanda che mi sta proprio qui. La Camera ha sancito che cani e gatti di casa devono essere condomini come tutti gli altri. Ora io mi chiedo, secondo te quindi, Mario, alle riunioni di condominio parteciperanno anche cani e gatti, che già sono cani e gatti, non si capisce mai niente alle riunioni di condominio. Secondo te li dobbiamo portare anche i cani e gatti? Si aggiungerà qualcuno che abbaia. Ecco, io c'ho uno struzzo, ancora bisogna vedere se è autorizzato, perché nasconde sempre la testa sotto il tappeto, di problemi non vuole sapere, tanto meno del condominio. Grazie a Mario Secchi. Ciao, e buona serata. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.